l'ultima puntata, tornando in studio dopo il GR di Radio Popolare, della neonata rubrica Altri Suoni, che avrà continuità anche grazie all'appoggio di Angelica, il festival che con sonorità portate in maniera assolutamente originale e di ricerca darà, come ho detto, un percorso per altri suoni da ascoltare. In questo caso, in conclusione, ho voluto portare un aspetto di produzione, cioè il remix, remissaggio, il risultato di una modifica di un prodotto, di una produzione, attraverso modifiche che possono essere l'aggiunta, la rimozione o il cambiamento di una delle parti della composizione. Spesso il termine remix è una versione alternativa di un brano musicale, l'alternate take, per essere in termine più vicini al jazz. Può contenere lo stesso testo o variarlo in alcune parti o estrapolarne in maniera personale dall'artista, dal produttore che decide di remixare per dargli un contenuto che appartiene alla produzione stessa. Generalmente la differenza maggiore è nell'arrangiamento, nella base ritmica, soprattutto per quanto riguarda i remix che ho portato, e nella stessa struttura. I remix, così per darne qualche esempio, poi ovviamente daremo una piccola playlist, anche se ve ne sono di svariati tipi. Il radio edit, che è la parte che può essere proposta senza l'extended play. L'extended play, di solito su 12 pollici, permette in vinile, permette al DJ di prendere parti più adatte per il mixaggio e il collegamento in playlist grazie al mix. Il remixare è una produzione del tutto a sé, se vogliamo. Può essere ovviamente da un lavoro che proviene dal passato, come ad esempio dalla colonna sonora di Svezia, Inferno o Paradiso, il Mana Mana, che è stato poi ripreso a metà degli anni 90. La composizione originale è di Piero Umiliani, è stato ripreso, trasformato con le caratteristiche di alcuni artisti, come ad esempio The Karminsky Experience, quello che stiamo ascoltando in partenza, in apertura a questa mini playlist dedicata al remix per Altri Suoni. Mana Mana. Alcune parti Karminsky per queste sonorità originali di Piero Umiliani le rielabora aggiungendo una ritmica più intensa e più piena. Ovviamente Mana Mana, che è stato scritto negli anni 70, ripreso poi negli anni 90, ha visto modifiche che riportano all'epoca una cocktail music che è stata in maniera illuminata ripresa, e non solo dall'Italia. Alcuni DJ e produttori italiani però hanno avuto una grande importanza nel lavoro di remixaggio, come ad esempio quello che ascolteremo tra poco. Tra gli autori di remix probabilmente i più attivi sono stati gli scienziati di Vienna, Kruder & Dorfmeister, per aggiungere qualche nota, con il dub version. Il dub è una tecnica di proposta musicale che viene dal toasting, dal reggae, dalla Giamaica, in cui l'approfondimento e l'aspetto incisivo di basso e batteria vengono dati in rilievo a un tema musicale già esistente. L'extended play questa parte la allunga ancora di più per dare la possibilità al DJ di mixare con il brano successivo. E intanto che portiamo le note di Karminsky Experience con Mana Mana, introduciamo anche un brano originale di un DJ italiano, autore di diversi remix. Anche lui è stato remixato. Questo è il brano originale dal disco The Jet Sounds, probabilmente per me è il disco più riuscito di Nicola Conte, è quello che lo identifica di più. Per la Schema Record, questa bossa per due, ce lo ascoltiamo. Nel remix c'è anche tanto lavoro di ricerca all'interno di brani del passato, come abbiamo sentito dal più noto Mana Mana, ma anche in questo caso c'è uno studio di approfondimento e di ricerca da altre epoche nell'Easy Listening. Questo brano è stato remixato dai Thievery Corporation e tra un po' ascolteremo, cercando appunto una comparazione e nel cambiamento di queste due ritmiche e strutture sonore. Corporation Remix dal disco Jet Sound, tutto rivisitato. Questo è il brano scelto, Bossa per due, da Thievery Corporation. Parti, poi ricomponendole e aggiungendo la voce frazionata, aggiungendo suoni che appartengono tipicamente al duo di Washington. Parte vocale che contraddistingue Bossa per due. bel remix, secondo me, grande importanza per l'Italia in questo lavoro con alcuni DJ e produttori, ne ho portati un paio dove le sonorità che hanno fatto la storia della cocktail music, poi ripresa col nome lounge, ma è veramente una definizione che fa rabbrividire, nulla c'entra, con Manà Manà di Piero Umiliani, Nicola Conte dal disco Jet Sound rivisitato, quindi con Alternate Take di Remix, grazie ai Cyber Corporation. Concludo però e vado in Germania con la Compost Record. Il lavoro di Remix può coinvolgere l'intero disco, come quelli che piacciono di più a me appunto sono quelli che riprendono l'intero disco, un disco particolarmente importante per DJ e produttori che ha visto motivo di ispirazione, viene completamente cambiato o almeno riportato con le sonorità di questi producer. Melodramatic, A Forest Mighty Black per la Compost Record, in questo caso dalla Germania, viene con un brano che è particolarmente secondo me adatto per lavoro di Remix, che è Fresh in My Mind, ripreso dalla formazione Hacienda. E con questo io mi congedo con l'ultima puntata di Altri Suoni, vi do appuntamento alla prossima stagione e tra pochissimo il Move to Groove inizierà anch'esso in ultima puntata. Poi avremo uno spazio di approfondimento con ospite dal vivo. Intanto A Forest Mighty Black da Melodramatic, il brano è Fresh in My Mind, remixato in Rainy Dub Mix dagli Hacienda. Poi i nomi dei remix hanno delle caratteristiche tutta a sé, sono tutto un motivo in cui viene racchiuso anche nel nome la particolarità del suono che viene proposto. Ok, a tra poco, buon ascolto.